I dati che sono stati esposti stamattina devo dire che sono molto positivi, sia sulla parte della nostra presenza nei paesi e sia come risultato delle delegazioni che abbiamo organizzato. E abbiamo visto che nei paesi dove abbiamo fatto delle buone spedizioni l'incremento è stato veramente notevole, quindi credo che sia una strada da percorrere e da implementare indipendentemente dal fatto che sia poi Confindustria organizzare o altri. Quello di fare sistema credo che sia la mossa vincente.